Sì, certo. E da lontano ti ho sentito qui. Ero bruciata già me da sola. E non rispondi a nessuno. No, mi ero piacendo. Non trappare la colonna. Ah, il zapparato io. Allora gli ho mai sentito. Sì, ma non sono potuto entrare, se ne che non lo finivano, non lo mollo. Bacchisio, sentito là. Ieri sera. Mamma mi ha detto che già entra. Se fa in tempo. Ieri sera non c'ero. Così che ieri sera non sono potuto entrare. Non c'ero là. Vabbè. Va benissimo. Ok. Non si è sentito nessun altro, no? No, stasera no. Ho sentito solo a te e buh. Passi pure che entri il Bacchisio adesso. E ieri sera chi c'era? Io al Bacchisio. E buh. Vabbè. Ah, già entrato allora a Bacchisio ieri sera. Vabbè. Marino l'ha entrato, no? Marino l'ho sentito, se no, 10 minuti prima. Ah. Magari lui sta lavorando, per cui... E se tardi, no? Stasera ho preso. No, col nipote. Sto dando attenzione al nipote. Ah, ho capito. C'è qualcuno di tanto, danno delle portate ma non parlano, lo chiamano. È peggio per loro, che già vedi ti dica. Certo, stanno provando. Si è aperta la porta. Aspetta che lo proviamo a chiamare a Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio, arriva la sera ma c'è una duedo. Oh, però sempre all'ora di chiudere, no? Ah, verso quest'ora, le 8 meno un quarto, meno 10. Stasera esattamente, non è rientrata ancora, sarà parcheggiata la macchina. Ah, può darsi pure. Così che forse anche mi durerà, ma la sera ha pensato malissimo. No, ha detto che io sono fatto un po' di nuda. Mi barriate per le mani, cattò. Ma è durato a bocca, no? Che era giorno di passaggio. Ha fatto un poco, da bocca se ne è andata. Ha preso Porto Torsi, Alghero, in questa zona, cazzo, Villarova. Qua nemmeno la metà è passata. No, Alghero non c'è manco passata. Passata a Porto Torsi, Castelsardo e tutta l'altra parte. Alghero non ha manco toccata, perché ho sentito uno stamattina e anche lui dice no, manco toccata. Villanova ha toccato me. Io ho pensato che fosse passata con la pagina, ho detto Porto Torres, Alghero e Villanova, invece allora, si è passata Alghero e vabbè. Ma io appena ho fatto i passaggi però ad Alghero, mi ha fatto un bongo, niente. E a parte sopra fedo me, dugna sera, per sempre temporale in questa zona. Cosa mi va? Tocca già apprentivi. Andiamo. Io pensavo che ieri sera durasse un bel po', Invece non è che sia durata molto, però una bella immaginata ne avrei avuta. Non è durata, un quarto d'ora, no, che è durata. Quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Infatti, una cosa del genere, sì. Vabbè, ma club io me l'hai fuggito. Adesso già si è raccavato, ma qui si è raccavato. Ma torna chi si lei, bambi, infatti non è già che scendi. Oggi mi sa che non che vicino è già che scendi. Che? Ma qui vieni da la vita e subito per la ruba. Ma si fa di frequenti, allora magrisci sempre. Che? Vabbè, però la vacca mi fresca un po', che siamo di bene, dai. Ah, ma come i begoli. Hai visto il signor Bacchi? Hai visto? Già, ma tu dicevi che non entrava, hai visto che è già entrato? Ma immaginavo io, Che sembra che sia diventato la poltrona a me per la frequenza, ma questo Bacchino. Signor Bacchi, non l'avevo d'accordo così, però, Fatti più sentire più spesso, perché non va bene così, Buonasera a tutti e due. Fate un posto più in là, capito? Fate un posto più in là e piano piano. Prima il dovere, poi la frequenza. E ieri sera l'acqua ha beccato chi ha in campagna, molto ne ha fatto lì. Ce ne ha fatto, ma quando la piove ero già a casa, io me l'ho guardato dalla finestra. Ah, così è. Hai visto a to? Sei qua a desiderare arrivare che ha fatto Eva. Cosa ci vuoi fare? Ma che sei andato? Ieri sera via. Ho fatto una passeggiata. Vabbè, autunnale. E qualche dove l'ho trovato. Troppo boghi. Avevo un po' garetto, venivo a mangiarla. Se ti chiedi, abbassami. A voglia. Ma sarà pure un tiro. 7 chili ne ho fatto ieri. Ma la sversire bene, però mi macchi. A venire tempo per andare a mangiarla. Piano piano. Capito? Ieri c'era come le pietre, mi hanno portato un amico. Ma vedi come c'era la brida, a raccogliere anche 24-25 se non posso. Ah, rimani, è andata così, Rosi a Cioca di Graziano, mi si ha regato quasi un sacchetto di mattato, l'ha regato, e ci ha mandato via a Dorradà. No, stamani è uscita, stamani veniva un bel, ma si è del tracco, tu io mi ero chiesto. 2 ore, ma 2 ore di intenso lavoro. Mi va a sapere i posti per andarci, cazzo. Ci sono 6 posti, cazzo. Perdi tempo, non li trovi pure. Invece prima si trovava dappertutto le lovacche, adesso invece, Marco Giocamino da via Ciappi. Ma ha deputato un amico, ma io dicevo almeno a Ciocca, io non so che venne, tu fate venire a fare compagnia. Adesso andiamo. Veniva a macchina, veniva. Se mi trova che conosceva il padrone, perché se no non veniva a farmi venuta lì. Ma dove l'hai fatta? È vicino a campagna tua? Sì, è vicino a campagna, sulla strada di Marchetto. Mio cognato c'è un amico, facciamo un tancato abbandonato. Ma non fate tra nessuno, il preservato. Giovanni l'ha domandato se lo diceva la gioca. Ne fatica, a me non mi dà del fastidio. Passate che non fai uscire animali, se ti riesci a pulire. Avete fatto bene, io domandelli, piace buffa. Ma se non mi vedo uscire animali, perché c'è le pecore e capre, no? Non lo capite, lo mettiamo, perché devi la gioca e sarete un cancello anche uscito. Infatti così bisogna fare, senza disturbare né nulla. Chiudere il cancello, entrare, chiudere, quando si esce tornare a chiudere. Anche quello sto lavorando, anche quello è un lavoro per lui. Se tu si fa fuggire gli animali o gli disturbi, non è giusto. È un favore che si sta facendo, fatti passare, se no dice, vai, gira e balla, via dalle robe. Infatti, è così, molti pastori fanno così, non ti fanno entrare, se vedono che tu non fai quello che dicono. È così a parte di Nuoro e altri posti. Fanno bene, è giusto, io lo ritengo giusto. Perché se la strategia fosse di quello, ne avrete questa cosa, apri e chiudi, non fa uscire, non disturbare le bestie. Se vuoi alcuni fuori, non da brida, non mi interessa, però qua se non disturbi le bestie. infatti, vabbè, io quando andavo a fare i funghi o lumache o cose, quando ne cadeva al muro lo rimettevo apposta com'era. Adesso c'è gente che non te ne va la lasciata come ti è, hanno a via le gomme, fanno bene le buie cose. Scusate, ero un po' disattento, vi stavo ascoltando che stavo parlando in verticale. Illumina, cos'è che stavate dicendo? Allora, stavamo dicendo, quando si entra nei posti degli altri, se c'è un cancello bisogna aprire e chiudere, se no vengono fuori le bestie. C'è molta gente, se ne frega, lo apro, lascio l'aperto, oppure magari salto i muri e spasciano e lasciano tu così e non va bene però, E hanno ragione, certe volte non ti fanno entrare per quel motivo, invece se tu entri, apri, devi chiudere, oppure se salti butti la pietra, devi rimettere a posto, in modo che non ti possano dire niente, ma se no ti fanno osservazione. Chiaro, è giusto, io lo ritengo giusto, ma se non puoi saltare il muro, cerca un punto dove si può saltare, dove magari è già basso un cancello, qualche cosa, cioè, no, prenderti nei muri alti, buttare giù le pietre, farti il posto per passare, poi lo lasci così, no, allora non puoi girare, dai tu. Parecchio le hanno fatte anche quelli che andavano anche a funghi, no? Saltavano, lasciavano aperti i cancelli, capito? Allora sai cosa facevano? Pigliavano e bucavano le gomme per dispetto, capito? Invece se uno va con delicatezza, se apre il cancello devi chiudere, oppure se salti che ne togli qualche ramo devi chiudere di nuovo, in modo che se c'è bestiame non esce ed è più tranquillo. Allora magari è tutto diverso da così, ma tutti non sono così però, però a quelli che non lo fanno le cose giuste bisogna farli sentire qualche cosa. Sì, ma fatto sentire proprio bene, capito? Vado a sentire, avanti se la so. Sì, purtroppo ne sono bene, non ne ha fatti nulla, e allora quindi bisogna farlo andare a piedi, e andare meglio così. Ma mi lascia qualcuno che è pure importante se divisi nel PMR. C'era anche ieri, ieri sera, no, quando è? Avanti ieri. Ogni tanto. Vediamo se non lo so fare. Qualcuno può essere che stia provando anche, no? Non è che gli puoi dire niente, l'importante è che non rompa quando magari stanno parlando, però quando non c'è nessuno in un canale, se tu sei in ascolto, se a me puoi portare che se ne frega, cosa le puoi dire? Niente. Ma non puoi dire niente perché magari sta accordando, facendo, niente a fare, però se è un'abitudine di parlarti sopra, è facile, però qualcuno sempre si lamenta, però non è che ti devi lamentare perché non offende nessuno quando è così, e portarsi non rompere quando stai parlando, quella è la cosa più importante, capito? Viai tu, avanti. Capito, signor Bacchi, è l'ultimo passaggio, non stavi uscendo, già per lui non stavo uscendo, adesso uscendo sto uscendo. Sì, a voi, però nell'ultimo passaggio eri muto. No, non lo so. Forse muto perché sta arrivando l'ora di stare muti. Forse per quello, Vito, perché c'è un po' d'appetito e allora magari manca anche il respiro poco a poco. Come mi sembra, insomma, le medicine che stanno aspettando, la fede che mangiare. Per carità, ma che quelli ci vogliono, se no sai com'è, quelli ci aiutano a tirare avanti finché la barca va, lasciamola andare. È proprio così, Giammarino, bisogna mettere il remo in barca e andare. Sì, no, guai, mancano quelli. Andiamo là, per cui meglio più tardi che possibile. Avanti, signor To. Sì, Anna Veanna, chietta, bebe. Finché la barca va lasciamola andare. Per forza, diversamente non va bene, non va bene. Bisogna prendere quello che ci vuole, così che anche ancora respiriamo bene. Senti che andiamo via, andiamo. E allora, così è il signor Macchino. Proprio così. Bisogna sempre andare avanti, sempre andare avanti, mai fermarsi. Non si ferma per tutto là. Bene, signori, io vi saluto, ne approfitto del micro, perché mi sembra sia una parola per me. Ciao Gian Maria, buona serata, saluto il correa familiare, buona cena, buon tutto, a sentirci domani. Vieni con le patatine anche per Tore, ciao Tore, saluto la signora, buona cena, a sentirci domani se tutto coincide. Ma qui ascolta il finalino e poi chiude. Ciao a tutti con la buona sera. Signor Bacchini, una cosa ti volevo chiedere, ma di tuo genere nulla, no? Non è arrivato, dovrebbe arrivare oggi, Mario. Se c'è qualcosa ti chiamo io domani. Andare, ne va bene, là. Ci sentiamo signor Bacchi, stammi bene, buona cena, ok, si prenda Gian Maria. Ok, allora salutiamo il signor Bacchiglio, ben risentito, buona cena, saluto di famiglia e se Dio tutto vuole bene, ci sentiamo domani, buon proseguimento in salata. Ok, mi sembra che chiudo anch'io, detto, ci sentiamo domani. Mi permette, dai. Buon procedimento e buona sera anche a te, saluto di famiglia. Allora chiudo anch'io, vai, ciao, ciao Bacchise, ciao Tore. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao.